Vi presentiamo ora Eclettica. Le trasmissioni proseguono ora a diffusione regionale. Spettacolo di cartoni animati. A winning attitude, and I say, let's give him a shot. What do you say? Hang on a sec. I think I might want to have a little time just to think it over. Do you want the job or not, Snack Shack? We'll be right back. In piedi, fresco e di buon'ora quel giorno. Ero giovane allora, pieno di inquietudini. E via! Mia madre, sporgendosi dal balcone in camicia da notte, piangeva e gesticolava. Dolce, fresco mattino. Chiaro troppo per tempo, come sempre. Avevo una tarantola di inquietudini in corpo, molto rabbiose. Il cielo sarebbe presto incupito e la pioggia a cadere, cadendo tutto il giorno fino a sera. Poi azzurro e il sole ancora per un secondo, quindi notte. Sentendo tutto questo, con estrema intensità e come sarebbe stato il giorno, mi fermavo e mi giravo. Indietro, con la testa in giù, per scoprire chiocciola, lumaca o verme. Questo era l'incipit di Da un'opera abbandonata, di Samuel Beckett. That's how it starts. We'll go back to your house. We check the charts and start to figure it. It's crowded, all the better, because you know we're gonna be a plate. But if you're worried about the weather, then you pick the wrong place to stay. That's how it starts. And so it starts. You switch the engine on. We set controls for the heart of the sun. One of the ways that we show our age. And if the sun comes up. If the sun comes up, then it's still the one that's staggered home. Siamo già esattamente alla metà di quella che è la seconda parte del primo volume di Eclettica di questa settimana, infatti mancano all'incirca 14 minuti alla chiusura della stessa e ancora non sono stato presente in voce, a parte l'incipit di Samuel Beckett. E Giulio Caperdoni, come tutti i giorni della settimana, fra le 19 e le 20 sulle frequenze di Rock FM, che in questa seconda parte già vi ha fatto ascoltare tutta una serie di brani che ben conoscete. Il primo di questa seconda parte era un po' di tempo che non compariva, sto parlando di Saro da parte di Sam Amidon, poi gli italiani The Mojomatics con Down My Spine, per chiudere con The Main Drag che abbiamo appena ascoltato nel rifare All My Friends, brano originariamente degli LCD Sound System. Ora invece una novità, è arrivato il volume numero 5 di una compilation a cui diamo sempre spazio all'interno di Eclettica, ovvero se Kitsune Maison, arrivata al numero 5, in questo caso con una veste grafica dorata. Ci sono sempre inediti di gruppi sconosciuti o poco conosciuti con un tocco elettronico che ormai è un marchio di fabbrica delle Kitsune Maison. Io ho scelto la traccia numero 2 delle 18 che sono contenute, ne trovate 17 ma poi c'è una ghost track, quindi sono 18 in totale. La mia, quella scelta per le playlist di Eclettica, è la numero 2, un quartetto inglese di nome Late of the Pier. Questa è solo la loro seconda traccia in assoluto di tutta la loro storia. Late of the Pier, che ci ascoltiamo con Broken nella versione Fairy Light Mix. Oh, instruction manual. Instructions. You start with one, two, three. Four. Are you cracking wise? I ought to punch you in the nose, Hopscotch. Now all glorious riding for dawn. Da ogni parte non una traccia di vita, voi dite, bah. E con questo? Immaginazione mai morta. Ma sì, appunto, immaginazione morta immaginate. Isole, acque, azzurro, verzura, attenzione. Pff. Via tutto, un'eternità. Zitti ora. Finché tutta bianca dentro il bianco la rotonda. Non c'è entrata. Entrate, misurate. Diametro 80 cm, stessa distanza dal suolo alla sommità della volta. Due diametri ad angolo retto, AB, CD. Dividono in semicerchi, ACB, BDA, il suolo bianco. A terra, due corpi bianchi, ciascuno nel suo semicerchio. Bianchi anche la volta e il muro circolare su cui poggia alto 40 cm. Questo era l'incipit di Immaginazione morta a immaginate, di Samuel Beckett. After the winds, late afternoon, under a glacial sky, after the fevered vengeances of voices, although you think, were they there? A hopeless horror blasts my heat, choked by silence, this invisible blood, things shift so quickly like lice through the hair. In the damp garden of the north, shrunk and eaten up, like these lice in my hair, scuffling around every exit barred, obstructed, blocked, debris fills the flickering of a spinning compass needle, lighter than air. Oblivion is no defense. In the mask, a crack, try to touch your name, the key's long lost, you can't get back, good for nothing. Eclettica, stagione numero 14, settimana numero 12, volume numero 1. Indice: Time Space Repeat, Mechanical Bride, La Cruz, White Denim, Evangelicals, Sam Amidon, The Mojomatics, The Main Drag, Late of the Pier, Joycat, Various Production assieme a Jerry Mitchell. E con questo, oltre ai saluti, anche le scuse per i piccoli problemi tecnici sorti durante la trasmissione. Cari amici, il vostro programma è terminato. Vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora. Cari amici, il vostro programma è terminato. Arrivederci.